Allora sì, ci proviamo. Allora Riccardo, questa mattina c'è stata questa prima udienza al polo fieristico di Viareggio, voi siete scesi anche in corteo, una prima valutazione. Ma oggi era il giorno tanto atteso dai familiari, perché dopo 4 anni e mezzo ovviamente aspettavano questo momento. I familiari sono venuti organizzati, i cittadini li hanno sostenuti, Assemblea 29 giugno ha lavorato in queste settimane per preparare questa giornata, perché volevamo che l'udienza, la prima udienza di questo processo che riguarda una strage ferroviaria avvenuta il 29 giugno 2009 con 32 vittime, fosse un momento partecipato, fosse espressa tanta solidarietà e ci fosse grande attenzione. Ci siamo dati appuntamento prima delle 9 a poche centinaia di metri dall'entrata del tribunale, abbiamo sfilato in corteo con la testa i familiari con le foto delle loro, dei loro cari, poi gli striscioni dell'associazione dei familiari, dell'assemblea 29 giugno ed anche delegazione e rappresentanza di altre stragi avvenute in questi anni nel nostro paese. C'erano i familiari del Moby Prince di Livorno, i familiari di Cassale Monferrato, dell'amianto a Sesto San Giovanni, all'ex Breda e altre realtà. Per cui diciamo che è stato un momento importante, con alcune centinaia di persone in corteo che hanno sfilato fino all'entrata del tribunale e poi alle 10 è iniziato il processo con tutte le formalità come non poteva che essere il primo giorno. Quel fatto gravissimo è che il giudice ha impedito alle telecamere dei mass media di essere presenti, perché in qualche modo diciamo che si è trattato di un processo per invito, perché erano presenti familiari, cittadini con i posti molto limitati nell'aula principale, e però è stato impedito, è un fatto gravissimo, ai mass media di essere presenti e di poter filmare il processo, e si tratta di un processo a porte aperte. Ho capito, e dunque ci sono stati particolari risvolti nella giornata di oggi da sottolineare? La svolta da sottolineare è questo, a parte tutte le eccezioni che stanno facendo gli avvocati dei 33 imputati, perché sono 33 imputati rinviati a giudizio il 18 luglio scorso, 9 società coinvolte, e ci sono i presidenti, amministratori delegati e proprietari delle società coinvolte. In primis dobbiamo ricordare l'amministratore delegato delle Ferrovie, Mauro Moretti, certo, che è rinviato a giudizio in un processo con imputazioni molto gravi, e allo stesso tempo il governo lo ha rinominato il 9 agosto scorso amministratore delegato di tutta la holding delle Ferrovie. Quindi diciamo che è una forma di complicità da parte del governo napolitano Berlusconi, o vogliamo chiamarlo Letta Alfano, quindi una sottomarca. È una complicità con la politica di abbandono attuata dall'amministratore delegato, quindi da tutto il gruppo dirigente delle Ferrovie in questi anni, con numerosi incidenti, le vittime, la strage di Viareggio, e poi non dobbiamo mai dimenticare che dal 2007 ad oggi hanno perso la vita sui binari 42 lavoratori. Una statistica impressionante, quindi il problema sicurezza esiste in ferrovia, e nonostante questo averlo riconfermato vuol dire essersi resi complici dei feriti, delle vittime, degli omicidi avvenuti in questi anni in ambito FS di questo paese. Eh sì, assolutamente, assomiglia tanto, appunto, quasi a una reiterazione, insomma, no, del medesimo atteggiamento, cioè quello di mandare al dissesto più totale, no, le linee ferroviarie. Queste sono le conseguenze, quelle che hai citato tu, i numeri che hai citato tu. I documenti e i numeri parlano chiaro, e purtroppo in questo caso sono numeri di vittime, e noi diciamo, per una politica di abbandono sulla sicurezza attuata in questi 20 anni, in particolare in ferrovia, Moretti ne è l'interprete personificato di tutto il gruppo dei dirigenti che lo hanno preceduto, e quindi lo smantellamento delle ferrovie come servizio sociale e l'abbandono della politica fa sì che oggi sui binari si muore, e per incidenti gravissimi come quello di Viareggio perdono la vita 32 persone che non erano né ferrovieri, tra l'altro, né viaggiatori come in precedenti disastri tipo Piacenza o Crevalcore, ma erano persone che stavano riposando nelle proprie abitazioni pensando che fosse il posto più sicuro della loro esistenza. Per cui oggi la tragica novità sulla strage di Viareggio è che ha coinvolto persone al di fuori dell'ambito FS. Quindi il problema è maggiormente grave, però la sua rinomina in qualche modo conferma questa politica di abbandono e quindi una forma di complicità. Noi l'abbiamo definita una cosa vergognosa e quindi dobbiamo aver chiaro con chi abbiamo a che fare. Eh sì, noi ogni volta che ne parliamo rimaniamo sempre sconcertati, insomma, nel ricordare quanto è successo e anche quelle che sono così le l'assoluta mancanza di una risposta dal punto di vista del cambiamento di rotta che ci dovrebbe essere. Una risposta chiara invece l'avete data voi oggi, insomma, anche dalle foto vediamo veramente tanta gente che è stata con voi là fuori in piazza. Noi, sai, sono 4 anni e mezzo che siamo impegnati in questa battaglia, diciamo, di sicurezza, verità e giustizia, e quotidianamente lavoriamo per sensibilizzare, informare, mobilitare, partecipare, e chiaramente oggi è un appuntamento importante. Sono alcune settimane che stiamo lavorando a questo momento, i familiari lo hanno detto stamani nei brevi interventi prima di entrare in tribunale, in sostanza hanno detto: noi siamo qui in rappresentanza delle nostre 32 vittime, faremo di tutto perché ci sia verità e sappiano per quali motivi sono morti o sono stati uccisi. Questo è l'impegno che hanno assunto. Noi dovunque andiamo parliamo della strage di Viareggio, perché voi